Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Solo un italiano su tre riesce a risparmiare, gli altri o consumano tutto quello che guadagnano o intaccano i vecchi risparmi o ricorrono ai prestiti. Lo fa il 9% della popolazione interpellata. Il ritratto è dell'ACRI, l'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio, che con l'Ipsos ha reso pubblico il consueto studio redatto in occasione della giornata mondiale del risparmio che si celebra oggi a Roma. La percezione del futuro dell'economia rimane orientata ad un forte pessimismo, ma questa sembra la notizia centrale del rapporto, almeno ci sembra, non è particolarmente peggiorata rispetto al 2007. Le domande del sondaggio Ipsos noi oggi le rivolgeremo anche a voi. Negli ultimi 12 mesi siete riusciti a risparmiare? Investite i vostri risparmi o state rimanendo, come si dice, liquidi? Qual è la vostra percezione degli effetti della crisi finanziaria internazionale? E i risultati che riusciremo a mettere insieme oggi li commenteremo con il professor Gino Gandolfi, professore ordinario di economia del mercato mobiliare alla facoltà di economia dell'Università di Parma, che in passato abbiamo spesso coinvolto per discutere con noi di tematiche di finanza comportamentale, e Isabella Mori, responsabile PIPT, progetto integrato di tutela servizi di cittadinanza attiva, che sta promuovendo proprio in occasione della giornata del risparmio la bussola del risparmiatore, cioè la campagna di educazione ai servizi finanziari e tutela del risparmio. Prima di tutto però andiamo in piazza della Cancelleria a Roma, dove per noi Sebastiano Barisoni sta seguendo la giornata mondiale del risparmio. Mi ha già parlato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Sebastiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Immagino che non vogliate da me sapere se sono riuscito a risparmiare oppure no nell'anno scorso, ma vogliate sapere che cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia da un lato e il ministro dell'economia Giulio Tremonti. In realtà è intervenuto prima il ministro Tremonti e ora sta concludendo il suo intervento il governatore Draghi. Il ministro Tremonti ha ricordato che questa crisi è dovuta anche al fatto che i finanziamenti in generale si fanno con soldi veri e non con soldi carta presunti. Ha anche chiarito, visto che mercoledì prossimo il governo varerà il decreto a sostegno del mondo e a garanzia dei depositi bancari, delle forme di risparmio in generale, ha detto che non è compito del governo fare banca né avere una banca, è solo una necessità contingente dovuta a una situazione eccezionale, ed è una situazione eccezionale che si sta realizzando e verificando non solo in Italia ma chiaramente in almeno 20 paesi al mondo. E Tremonti ha anche aggiunto, per essere ancora più esplicito, che avere azioni di una banca nuoce alla politica, questo a rimarcare il fatto che il governo non ha nessun interesse ad entrare in maniera stabile e strutturale dentro il capitale azionario delle banche, e ha anche rivendicato la bontà del provvedimento che mercoledì prossimo verrà varato. Ha detto: noi non abbiamo indicato alcuna cifra, non c'è un euro indicato, perché se il provvedimento dovesse avere pieno successo non ci sarà bisogno di tirar fuori un euro. È un provvedimento che deve riportare fiducia e tranquillità alle banche, ai risparmiatori e ai prestiti bancari. Secondo Giulio Tremonti, infine, il motivo per cui si è arrivati a questa situazione di crisi mondiale sui mercati si chiama globalizzazione, ma non la globalizzazione in sé quanto i tempi e i modi in cui è stata realizzata. Veniamo all'intervento del governatore Draghi. Draghi è stato subito molto chiaro: la stagnazione economica in corso durerà fino a metà del 2009. Ha anche elogiato l'intervento dello Stato del governo sulle banche, ricordando però che deve essere temporaneo. Draghi ha poi chiesto meno tasse sia sui conti correnti, ma ha anche chiesto che venga modificata la tassazione sui fondi comuni di investimento, ossia non si tassi il guadagno maturato ma il guadagno effettivamente realizzato, anche perché sennò in periodi di forte calo dei mercati, dei corsi azionari, tassare il maturato porta a ovvie distorsioni. E poi il governatore della Banca d'Italia ha appena fatto notare come, nonostante un leggero miglioramento della situazione, ancora il mercato interbancario, cioè dei prestiti tra banche, sia un mercato rarefatto. Le banche continuano a non volersi prestare soldi, non si fidano le une delle altre. Pensate che, questa è la stima del governatore, la media dei prestiti tra banche in questo periodo è meno della metà della media del 2007, e la differenza tra quanto costa prestare un soldi da banca a banca e quanto costa invece metterli in un investimento sicuro, la differenza, che normalmente è dello 0,1%, ha toccato il 2% e comunque resta a 187 punti base, ossia l'1,87%. Come dire, c'è un rischio calcolato tra le banche nel prestarsi soldi che è 10, 15, 18 volte superiore a quello normale. E allora il governatore, così concludo, Draghi ha chiesto alle banche che utilizzino un altro strumento al di là dell'Euribor per calcolare il costo dei mutui a tasso variabile, per calcolare quello che è il costo della raccolta, perché in questo momento l'Euribor non sta fotografando il costo della raccolta, sta fotografando semplicemente o soprattutto il tasso di sfiducia che c'è tra le banche, ma questo tasso di sfiducia viene poi fatto pagare anche ai risparmiatori che hanno un mutuo a tasso variabile o alle imprese che richiedono prestiti alle banche. Debora. Grazie Sebastiano, temi che noi tocchiamo costantemente a Salvadanaio. E tanto per agganciarci all'ultima considerazione del governatore Draghi, di cui Sebastiano Barisoni ci ha appena riportato, appunto vi annuncio che comunque un po' di passi indietro l'Euribor li sta facendo e oggi conferma questa tendenza con il tasso a tre mesi che è stato fissato al 4,76%, nuovo minimo dalle metà di aprile, ma siamo ancora molto lontani dai tassi di riferimento della BCE, che sono adesso, come sapete, al 3,75% e probabilmente verranno nuovamente toccati a ribasso anche nel meeting della BCE della prossima settimana. Noi torniamo allora ai risultati della ricerca Ipsos per l'84esima edizione della giornata mondiale del risparmio. Vi faccio ascoltare prima di cominciare ad interagire con i nostri interlocutori di questa mattina, tra l'altro ricordandovi anche che potrete voi interagire con noi chiamandoci come sempre all'800240024. Vi faccio ascoltare come il presidente dell'istituto Ipsos, Nando Pagnoncelli, ha spiegato in quali comportamenti si traducono le preoccupazioni che interessano in questo momento in primo luogo i ceti medi. Sicuramente quello che noi abbiamo è una forte preoccupazione per la capacità di risparmio. Questo sinceramente non è legato in modo sistematico a un accantonamento mensile. Ma sostanzialmente noi avvertiamo che nei processi di scelta, addirittura sul punto vendita, si fanno scelte molto più selettive rispetto al passato. La scelta della promozione, la selezione di marca in relazione all'offerta che viene fatta in quel momento, la scelta di unbranded, quindi di prodotti non di marca e così via. Dopodiché questi comportamenti determinano una capacità di risparmio che però non è facilmente programmabile, anche alla luce del fatto che molti pensano che non ci sia un grande controllo dei prezzi e che sia più il consumatore che si debba ingegnare per trovare l'offerta più conveniente. Da noi abbiamo un tasso di preoccupazione maggiore che in altri paesi. Ed è il ceto medio, è quella quota del 40% che dice è stato difficile tenere il potere d'acquisto, abbiamo dovuto fare delle scelte, in taluni casi drastiche in famiglia, per tenere quel tenore di vita. Ecco, tra questi c'è la paura dell'impoverimento, quindi non sono i ricchi che hanno paura, sono i poveri e quelli del ceto medio. E sentiamo anche queste paure poi come si traducono sulle scelte di investimento dei risparmiatori italiani, ancora Nando Pagnoncelli. Cresce la quota di coloro che invece dicono non vivo tranquillo se non metto da parte qualche risparmio. Come investono o come vorrebbero investire? In generale dicono di privilegiare la liquidità, 60%, e l'investimento un 35%. Come si compone? Un 23% dice investo una piccola parte dei risparmi, un 12% la maggior parte dei miei risparmi. Abbiamo chiesto, alla luce della situazione economica attuale, l'investimento ideale. Allora vedete che è cresciuto nel tempo in misura significativa la voce immobili, 56%. Poi vedete si accentua il 29% la quota di coloro che privilegiano o pensano che sia più importante investire in strumenti finanziari più sicuri. Aggiungo che tra questi strumenti finanziari più sicuri la citazione, questo è un dato aggregato, dei bot, dei titoli di Stato, passa dal 6% lo scorso anno al 10% di quest'anno. 800240024, il numero verde a vostra disposizione. Vi ribadisco, ci piacerebbe che oggi ci raccontaste se negli ultimi 12 mesi, da quando la crisi è esplosa in tutta la sua forza, in tutto il suo vigore, siete riusciti a risparmiare, come state traducendo anche nei vostri comportamenti la crisi finanziaria, e investite, continuate ad investire i vostri risparmi o, come stanno facendo molte famiglie italiane, lo abbiamo testimoniato anche nella puntata di ieri, state rimanendo, come si dice, liquidi in attesa di tempi migliori. Le vostre nuove, se ci sono, attitudini le commenteremo intanto con il professor Gino Gandolfi, professore ordinario di economia del mercato mobiliare all'Università di Parma, facoltà di economia. Professor Gandolfi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie di essere intervenuto a Salvadanaio, così come ringrazio Isabella Mori, responsabile PIPT, Servizi, Progetto Integrato di Tutela di Cittadinanza Attiva, come anticipavamo prima, sta promuovendo, parte proprio oggi, in concomitanza con l'84esima giornata mondiale del risparmio, l'iniziativa La Bussola del Risparmiatore, cioè la campagna di educazione ai servizi finanziari e tutela del risparmio. Dottoressa Mori, benvenuta anche a lei. Grazie e buongiorno a tutti voi. Comincio subito con lei, allora, per commentare i risultati dell'indagine Ipsos di quest'anno. In realtà in molti hanno enfatizzato questo aspetto, cioè che la percezione del futuro rimane orientata al pessimismo, ma non è particolarmente peggiorata rispetto allo scorso anno. Qualcuno dice: non crediamo molto a questo risultato, non ci sembra poi così rosea la situazione. Qual è la vostra sensazione? Anche la nostra sensazione non è così rosea, lo vediamo tutti i giorni dai cittadini che ci contattano, ci sembra che il senso di sfiducia nei cittadini c'è e sia crescente. Comunque se vediamo i risultati dell'indagine dello scorso anno presentata dall'Ipsos, è vero che diciamo è leggermente migliorato l'ottimismo dei consumatori, però comunque le percentuali di coloro che invece sono sfiduciati, pensano che questa crisi sarà lunga e sarà dura, è comunque molto elevata. Quindi diciamo che il pessimismo c'è e continua a pervadere i cittadini che ci contattano quotidianamente. Ecco, è che tante volte, poi senza naturalmente nulla togliere sicuramente l'autorevolezza del sondaggio Ipsos, mi chiedo quanto sia facile anche esternare il proprio disagio economico qualora ci fosse all'interno del proprio nucleo familiare. Professor Gandolfi, lei che a volte è stato coinvolto da noi proprio per discutere delle tematiche di finanza comportamentale, riusciamo a parlare adesso con chiarezza, ad ammettere con chiarezza se siamo o meno in difficoltà nell'ambito della nostra famiglia a gestire il nostro reddito, a farlo resistere per tutta la durata del mese? Beh, allora, innanzitutto, se mi consente, vorrei collegarmi a quanto diceva la collega dottoressa Mori, perché condivido la sua impostazione, e vorrei anche ricollegarmi a quanto affermato dal governatore Draghi. Poco fa ci diceva che la sfiducia non riguarda solo i cittadini e i risparmiatori, ma a quanto pare anche le banche nei confronti delle banche. Quindi di fatto questo fa da sfondo allo scenario. Venendo sulla sua domanda, penso che tutto ruoti attorno al tema dell'educazione. La mia sensazione è che una scarsa educazione proprio sugli elementi basilari, quelle che sono le scelte di investimento, sono un po' la causa di tutto. Quindi probabilmente saremo in grado di rispondere meglio a queste domande nel momento in cui saremo più formati. Questa è un po' la mia idea. Per il resto, le altre indicazioni che emergono dal sondaggio Ipsos di quest'anno, solo il 34% degli interpellati riescono a risparmiare, il 38% consuma tutto il proprio reddito, il 27% della popolazione interpellata spende più di quanto incassa, un po' all'americana, professor Gandolfi. Ma guardi, che sia un momento difficile abbiamo detto ed è evidente, però se mi consente, giusto anche per drammatizzare un po', io ho proprio di fronte a me qui un giornale che lei sicuramente nota, che è Sole 24 Ore, lunedì 13 ottobre c'è un bell'articolo in prima pagina che dice: il 6% del reddito punta sui giochi. Allora, diciamo che il lotto in questo periodo ci ha un po' tentato, no? Ci ha tentato tutti, però allora poi ci ricolleremo sul tema della razionalità, dell'approccio corretto agli investimenti. Allora, io volevo essere anche un po' provocatore, però dico questo: è vero, facciamo fatica, però vorrei capire chi compone questo 6%. Allora, è evidente che le difficoltà ci sono, però bisogna ragionare in termini di selezione. Nel momento in cui facciamo scelte sia come investitori sia come consumatori. E quindi mi ricollego a quanto diceva Pagnoncelli nella intervista che avete rilasciato poco fa, e diceva: notiamo sempre più attenzione, selezione anche quando i cittadini consumano e acquistano, bene, io dico se vuol dire essere più consapevoli e più attenti, non trovo che sia un problema. Allora andiamo subito a sentire invece cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ai quali farò anche, se me lo permetteranno naturalmente, alcune delle domande che sono contenute nel sondaggio Ipsos di quest'anno, per capire come la pensano, come sono orientati in questa fase in tema di gestione del proprio denaro e, se possibile, del proprio risparmio. Giulio dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno e complimenti. Le posso fare subito una domanda del sondaggio? Ovviamente la nostra non è poi una pretesa di avere una veridità scientifica nel risultato, perché dovrebbero essere fatte tutte quante. Negli ultimi 12 mesi la sua famiglia è riuscita a risparmiare parte del reddito guadagnato? Sì, qualcosina, facendo attenzione alle spese si è riuscita a risparmiare. Ha dovuto fare altre rinunce, quindi un po' più forti del passato, oppure tutto sommato la sua situazione è rimasta stabile? Abbiamo fatto delle rinunce in più anche alla luce della situazione un po' economica disastrosa in generale, perché abbiamo rinunciato a qualcosina. A qualcosina. Nei prossimi 12 mesi invece la sua situazione e la situazione della sua famiglia come la vede? Situazione economica generale permettendo, penso stabile. Benissimo, e questo già secondo me è un buon risultato, no? Visto che invece, poi lo diremo anche nell'ambito del dettaglio, per qualcuno, qualche famiglia ammette candidamente che la propria situazione è piuttosto peggiorata, molte famiglie hanno cominciato a sperimentare difficoltà gravi. Per il resto, Giulio, come gestisce il suo risparmio? Ma allora, io sto mantenendo una quota di liquidità in attesa degli eventi e poi ho delle index AXE MPS che a scadenza l'anno prossimo, per cui ero anche indeciso su come muovermi a scadenza e con la liquidità, perché sto pensando in investimento nell'immobiliare, però i prezzi dicono che forse dovrebbero scendere, tutta una situazione di incertezza un po' totale, ecco, per cui sono un po' indeciso. La ringrazio, Giulio. Isabella Mori, cittadinanza attiva. Questa è sicuramente una situazione che può tipicamente essere rappresentativa di quelle, no, che arrivano anche ai vostri sportelli. In una fase come questa, come si fa ad individuare lo strumento finanziario corretto per gestire la nostra situazione finanziaria? Quali sono le domande che arrivano ai vostri sportelli e quali risposte siete in grado di dare? Perché immagino che voi, che non fate anche il lavoro di consulenti del risparmio, ma fate altro, sia difficile, no, dare un orientamento corretto in una fase come questa? Sì, guardi, è assolutamente difficile in questa fase, perché l'incertezza diciamo che predomina su tutto il resto, quindi anche i consumatori che magari hanno una buona conoscenza, un buon livello medio in ambito bancario, però diciamo si trovano disorientati. Quello che però io vorrei ribadire è proprio che prima di dare dei consigli sulle modalità migliori di investimento bisogna fare una maggiore informazione di base, ed è proprio quello che noi facciamo come associazione di consumatori. Lei prima parlava della nostra iniziativa, la campagna di educazione ai servizi finanziari, che lanciamo oggi e durerà per tutto il mese di novembre, e che consiste proprio nell'apertura di 25 sportelli in altrettante città italiane, dove ci saranno dei nostri consulenti che sono però dei cittadini che hanno avuto una formazione e daranno informazioni ad altri cittadini. E in questa occasione verrà distribuita una piccola guida a risparmio consapevole, dove oltre ad altri opuscoli, oltre ad altre informazioni, dove ci sono oltre 60 consigli utili e avvertenze presentate in un linguaggio semplice, e dove soprattutto si punta molto ad un'autoanalisi del profilo del consumatore, del piccolo investitore, e quindi diciamo che soltanto dopo aver fatto questa analisi dei propri bisogni, delle proprie aspettative, della necessità di investire del denaro e riaverlo dopo breve termine, oppure di poter aspettare per un investimento più lungo, solo diciamo dopo che si è fatto questa sorta di check-up è possibile poi fare delle valutazioni più consapevoli. In questi giorni chiaramente come associazione siamo stati raggiunti da moltissime segnalazioni, alcune sono molto drammatiche perché ci sono dei consumatori che sono stati anche coinvolti nella crisi del fallimento Lehman Brothers, quindi noi abbiamo delle segnalazioni di cittadini che avevano investito ad esempio tutta la loro liquidazione in queste forme di investimento, parliamo anche di 200.000 euro, e al momento c'è un'incertezza totale. E quindi in insomma queste... lì già emerge per esempio il primo principale errore della gestione del risparmio, cioè quello di collocare tutte le proprie risorse disponibili in un unico prodotto. Chiaramente esatto. Nessuno di noi immagina mai che la banca alla quale ci rivolgiamo, non è poi nella fattispecie Lehman Brothers perché quello è un investimento indiretto, possa fallire, però ecco, in questa crisi finanziaria abbiamo conosciuto anche questo drammatico aspetto che ci fa trovare adesso in una situazione molto difficile per molti italiani. Si parla di almeno 100.000 italiani coinvolti direttamente o indirettamente in questo crack. Sono aspetti da cui partiremo nella seconda parte di Salva Danaio. Allerto già il professor Gandolfi, che vorrei sentirlo invece su questa ossessione alla ricerca della sicurezza del proprio risparmio e della protezione, che è stata anche confermata dalla trasmissione che abbiamo fatto ieri. Molti italiani stanno addirittura chiudendo il proprio conto corrente per spostare tutte le proprie risorse di liquidità verso i libretti di risparmio, ritornando alle poste. Cosa vuol dire questa tendenza? Soprattutto, c'è anche qualcosa di sbagliato in questo atteggiamento? Inevitabilmente oggi Salva Danaio non poteva che occuparsi dell'84esima edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, che si sta celebrando a Roma. Ha già parlato questa mattina il governatore della Banca d'Italia Draghi, il ministro dell'Economia Tremonti, e soprattutto il governatore Draghi si è soffermato su temi attinenti al risparmio degli italiani. Ha parlato di mutui, invitando le banche ad usare nuovi parametri per i mutui a tasso variabile, non l'Euribor che è schizzato letteralmente negli ultimi mesi. È urgente rivedere il regime fiscale dei fondi comuni, ha detto, e poi bisogna anche rivedere il fisco sui depositi. Pesa su banche e risparmiatori. E questa edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, come sapete bene, non c'è certo bisogno che lo ricordi io, piomba in una fase molto difficile per l'economia internazionale, anche per il nostro paese. Noi stiamo cercando di capire come sta cambiando la tendenza al risparmio delle famiglie italiane, tema che affrontiamo spesso, molto più spesso di recente, da quando abbiamo assistito anche ad atteggiamenti diremmo quasi ossessivi. Non vorremmo utilizzare una brutta parola, però, professor Gandolfi, coinvolgo lei, Università di Parma, tra l'altro molto attivo anche sul territorio nell'organizzare incontri pubblici con le famiglie, con i risparmiatori, per far capire loro come funzionano gli strumenti di investimento e soprattutto quanto sia importante individuare in primo luogo le proprie esigenze di investimento e di risparmio. Ieri abbiamo dedicato la nostra trasmissione alla fuga dai conti correnti per attivare adesso libretti di risparmio postale, no? Situazioni che si erano già viste anche in passato, per esempio all'indomani dei crack Cirio e Parmalat nel nostro paese. Quanto c'è di sbagliato in questo atteggiamento? Ma guardi, vorrei rispondere facendo una premessa, spero di essere sintetico e soprattutto chiaro. Vorrei chiarire perché il sistema bancario sia così importante e svolga un ruolo fondamentale, vorrei dire proprio di interesse pubblico, così capiamo anche perché è di interesse anche dei nostri politici adottare delle scelte che tutelino questo sistema. Beh, insomma, lei va subito su un campo minato allora. Ma ci vado molto volentieri, perché spero di poter aiutare a capire. Allora, provo a sintetizzare. Noi immaginiamo di avere le famiglie come un intero aggregato. Ecco, le famiglie italiane, aggiungo per fortuna, oggi hanno un saldo finanziario positivo. Mi spiego per non inesperti. Vuol dire che complessivamente, visto che il tema è il risparmio, bene, complessivamente le famiglie italiane sono in surplus di risorse finanziarie. Poi scopriamo che c'è un altro aggregato molto importante che è dato dalle imprese non finanziarie. Perché sono importanti, lo sappiamo, non sta mai a dirlo. Bene, queste imprese come aggregato hanno un saldo finanziario negativo, cioè vuol dire in sostanza che sono nella situazione diametralmente opposta a quelle delle famiglie, cioè sono in deficit, hanno bisogno di risorse finanziarie. Ora, noi sappiamo che perché ci sia crescita e quindi perché ci sia benessere per tutti, è importante che le imprese producano. Allora la domanda è: come fanno le imprese a produrre se non hanno risorse finanziarie? Allora entra un terzo soggetto, il sistema bancario. Ora, il sistema bancario, se mi perdonate con una metafora, è un po' come una catena di trasmissione. Io mi immagino che il motore sia costituito dalle famiglie, le ruote sono le imprese, ecco, il sistema bancario è la catena di trasmissione. Perché tutta questa grande premessa? Così vengo alla sua domanda. Sul discorso conti correnti. Per far capire banalmente che se, adesso cito il primo caso che mi viene in mente, che è più vicino al nostro, non si può far lasciare fallire Unicredito e non è nelle condizioni di ovviamente andare verso questa... Pertanto è importante che lo Stato che intervenga a garantire anche un'eventuale situazione di maggior difficoltà di Unicredito, perché così garantisce la permanenza, la vitalità di questa cinghia di trasmissione che lei citava. Assolutamente sì, guarda, ha colto proprio il segno. Allora vengo alla domanda. Allora io non intervengo su quelle che sono le scelte dei singoli perché non sono né in grado né voglio esprimere giudizi sul comportamento delle persone perché non sono io all'altezza. Dico soltanto questo, che dal punto di vista oggettivo, in termini di garanzie, tra un libretto postale e un conto corrente non vedo nessuna differenza, anche perché qui ti garantisce sempre lo Stato, quindi non cambia nulla. Anzi, qui aggiungiamo al limite per i conti correnti abbiamo anche un fondo privatistico del fondo interbancario di tutela dei depositi. Esattamente. Però vengo su un altro aspetto più importante, che è un tema di responsabilità dei singoli cittadini. E allora ritorno alla catena, quindi al discorso che ho fatto poco prima. Dobbiamo essere tutti convinti che se noi per primi rompiamo, siamo responsabili della rottura della catena, poi non dobbiamo lamentarci, non dobbiamo piangere se le imprese cominciano a soffrire, se poi il PIL diminuisce, se poi magari qualcuno rimane senza lavoro. Perché mi perdoni, ma allora siamo noi responsabili di quello che abbiamo creato. Ecco, ma mi sta dicendo, professor Gandolfi, perché a questo punto, tra l'altro, sto anche trascurando i nostri ascoltatori, ma li chiamo immediatamente, che quindi è irragionevole, anche in relazione a quello che è successo nel passato, l'atteggiamento di sfiducia che si ha nel sistema bancario, perché anche su questo vorrei essere molto attenta, perché ci sono molti ascoltatori che mi scrivono che spesso faccio delle trasmissioni troppo bancario orientate e dimone scampi insomma da questa tendenza. Io cerco solamente di animare dei dibattiti e cercare di implementare anche lo spirito costruttivo di ciascuno di noi. Questo è quello che voleva arrivare a dirmi? Non abbiamo avuto ragioni negli ultimi tempi di essere anche un po' sfiduciati nei confronti del sistema bancario e questa crisi non ci dà ragione anche di questo? Guardi, allora, giusto per essere più chiaro, io non voglio essere, perché non sono quello che deve infondere fiducia alle persone, dico soltanto che noi stiamo vivendo una crisi, questo è un dato di fatto, che è per noi indiretta, nel senso che noi ne paghiamo le conseguenze indirette. Il modo di fare banche in Italia, così sono anch'io molto esplicito, si è sempre realizzato nel rispetto di quelli che sono i dettami della dottrina dominante che abbiamo in Italia. Mi spiego, la crisi parte, lo sappiamo, negli Stati Uniti con quei famigerati subprime. Allora, anche qui volendo semplificare, che cosa si è fatto? Si è concesso credito a tutti indiscriminatamente, senza magari badare tanto alle garanzie, tanto anche perché poi le banche americane, non quelle italiane, perché qui c'è proprio un modo diverso di fare banca, che cosa facevano? Una volta che erogavano il prestito, quel prestito non se lo mettevano in bilancio, come aggiungo succede per le banche italiane, ma come sappiamo lo vendevano a terzi, così facendo aumentavano la possibilità di finanziare gli discorrendo. In Italia tutto questo non è successo. Ora io cosa sto dicendo? Che le banche italiane sono decisamente più sicure, concordo con quanto si diceva poc'anzi con riferimento all'intervento del governatore Draghi. Questo però, e aggiungo per chiarezza, non vuol dire che allora noi possiamo dormire tranquilli in mezzo a quattro guanciali. Perché? Faccio un'altra metafora nella speranza che sia chiara. È come se qualcuno mi chiedesse, se io guido l'automobile rispettando il codice della strada, quindi passo col verde, rispetto i limiti, posso dire con certezza che non verrò mai travolto, che non avrò mai un incidente? Mi sembra di poter dire che la risposta è non necessariamente. Va bene, professor Gandolfi, c'è un ascoltatore che mi ha scritto, ci manca solo che passi l'idea che la colpa è nostra, e non aggiungo altro perché ha fatto anche una considerazione non carina ai nostri riguardi. Io non credo che il professor Gandolfi volesse dire questo. Il tema è forse finale della sua considerazione. Non assumiamo atteggiamenti irragionevoli come per esempio la chiusura del rapporto appunto con la banca, perché credo che in questa fase sia inutile, nessuno porterà via i nostri risparmi, però forse da questa crisi possiamo imparare a comportarci in maniera più consapevole nei confronti anche di chi ci eroga consulenza. Paolo dalla provincia di Venezia, buongiorno, l'ho abbandonata da un po', così come Salvo da Palermo, al quale chiedo ancora qualche istante di pazienza, li sento tutti e due insieme. Paolo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. La convince tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? Ma in parte sì, in parte la trovo un po', come dire, limitata. Ecco, io non sono in grado di fare grandi analisi finanziarie ed economiche. Non è chi lo è, Paolo, adesso, come lei ha avuto modo di vedere, chi parla sbaglia in ogni momento, ecco, per cui ci limitiamo a commentare quello che abbiamo, il contingente. Ecco, io vorrei dire, io porto la mia esperienza della mia famiglia, siamo due lavoratori dipendenti, io e mia moglie con due figli. Noi sono già due anni che non si risparmia nulla, a fine anno si fa una patta, cioè la piccola economia mensile alla fine se ne va nella grossa spesa, che può essere la sostituzione della caldaia o la manutenzione del tetto del condominio. Quindi la crisi, questa crisi finanziaria non ci ha ridotto i consumi, erano già ben ridotti prima. Le economie che si fanno stando attenti alle promozioni, l'acculatezza in ciò che si compra, per noi è una situazione necessaria, non per risparmiare, ma ripeto, per chiudere in parità fra entrate e uscite a fine anno. Il bilancio a fine anno, Paolo. Quindi forse per questo che dal sondaggio Ipsos emerge che la situazione non è molto cambiata rispetto allo scorso anno, perché comunque le formichine italiane in qualche maniera forse avevano già individuato qualche focolaio di crisi e da qualche tempo avevano già modificato e cercato di mettere in atto iniziative per salvaguardare anche il proprio risparmio o chiudere in bilancio il bilancio almeno alla pari, come suggeriva Paolo da Venezia. Salvo da Palermo, buongiorno. Buongiorno, io chiedevo come si fa a risparmiare, come si fa a tutelare i propri risparmi di fronte a una situazione del genere. Cioè, io mi sto accorgendo che i miei risparmi ogni giorno che passa stanno svanendo, così le vedo che si affaticano sempre di più. Pensavo di avere messo qualcosa da parte negli anni che lavoravo, dopo 40 anni di servizio pensavo di avere, con la liquidazione, aver raggiunto un piccolo risparmio che ogni giorno che passa quindi lei Salvo, quindi, a questo punto dove deve andare a sbattere la testa senza farsi male? Salvo, lei ha sintetizzato insomma quella fetta molto chiaramente di popolazione che vede la sua situazione invece peggiorare alla luce della sua crisi. Ma lei è in pensione, Salvo? Sì, sono in pensione da qualche anno e vedo che la cosa è diventata molto più critica di prima. Sì, quindi lei fa... E poi tra l'altro vive in una città che, diciamocelo chiaramente, magari ha una qualità di vita anche che è sicuramente meno pesante di Milano, di Roma, delle grandi città dove gli affitti sono alle stelle. Ha una casa di proprietà, Salvo? Anche... C'è una casa di proprietà col mutuo che fortunatamente sono ormai già alla fine. Sta finendo, almeno Lei diceva è più vantaggiato, ma qui c'è un altro problema, non c'è lavoro. Non c'è lavoro per nessuno, o quel poco che c'è solo se conosce qualcuno. Poi volevo chiedere un'altra cosa, se me lo permette. Sì. La dottoressa di Cittadinanza Attiva diceva poco fa che hanno attivato i loro uffici. Io a Palermo posso andare uno di questi uffici se ci sono? Salvo, accidenti, le daremo tutte le indicazioni necessarie. La dottoressa Mori adesso prende carta e penna e le dà tutti gli indirizzi utili anche per poter raggiungere qualcuno a Palermo. A Salvo Danaio, l'84esima giornata mondiale del risparmio, di cui continueremo a parlare nel corso della giornata. Naturalmente noi oggi abbiamo aperto idealmente il microfono, come facciamo tutti i giorni per la verità, ai nostri ascoltatori per farci raccontare come sta cambiando la tendenza al risparmio, l'orientamento al risparmio alla luce della crisi finanziaria internazionale. Non è la prima volta che ovviamente ne parliamo, oggi ci sembrava doveroso tornare sull'argomento alla luce di questa ricorrenza che si celebra per quello che riguarda il nostro paese a Roma, e stiamo ascoltando molte testimonianze interessanti, molto rappresentative della situazione attuale, e commentandole con il professor Gino Gandolfi, Università di Parma, e Isabella Mori, Cittadinanza Attiva. Eravamo rimasti alla domanda all'800240024 di Salvo da Palermo, voce tremolante, un pensionato, una fascia molto debole in questo momento, in grande difficoltà nel nostro paese, e credo che però, così spulciando anche tra le città coinvolte nella vostra bussola del risparmiatore, forse Palermo non ci sia, c'è però Catania, dottoressa Mori? No, Palermo. Abbiamo anche Palermo, benissimo. Iniziative. Sì, Palermo c'è tra le iniziative che sono state organizzate, ed inoltre a Palermo c'è un nostro servizio stabile dove la persona, il signor Salvo mi sembra si chiamasse, sì, può rivolgersi indipendentemente da questo mese che è dedicato proprio all'iniziativa sul risparmio, e si trova in via Monte San Calogero 28, quindi potrà rivolgersi tranquillamente ai nostri consulenti. Io sono molto colpita dalle chiamate dei spettatori e anche al messaggio che credo vi sia arrivato prima, della persona che diceva: ma allora la colpa di tutta questa crisi sarà nostra? Sta a guardare che le banche falliscono perché noi tiriamo via il nostro conto corrente, azzeriamo il nostro rapporto col conto. Sì, dottoressa Mori. Scusi, prego. No, no, no, stavo dicendo, sta ricommentando quel messaggio, appunto la sintesi sì, era sì, sta a guardare che è colpa nostra, che le banche sono in difficoltà e ci dobbiamo sentire in colpa noi perché magari così in questo momento di sfiducia... Esatto, io mi sentirei di dare una risposta chiaramente perché in quanto rappresento proprio i cittadini come associazione, assolutamente la colpa non è dei cittadini, ci mancherebbe altro. Semmai la colpa è di un sistema che per anni non ha tenuto conto di quelle che erano le esigenze dei cittadini e quindi anche quando si sono fatte delle iniziative, magari a livello bancario, non si è tenuto conto proprio della voce dei cittadini. Pertanto puntare sull'informazione, puntare sulla formazione, io credo che sia fondamentale. Certo. Ma è anche poi fondamentale che però ci siano dei controlli e questo è anche, il grande diciamo, tema del momento. È emerso anche dal sondaggio, insomma, perché appunto i cittadini ritengono che il sistema di regole e di controlli che tutelano il risparmio in Italia nel 56% dei casi non sia efficace. È un sistema di concordare pienamente. Certo, che sta ripensandosi interamente e che porterà sicuramente delle riforme generali anche nel sistema della regolazione molto importanti. Però, dottoressa Mori, secondo me dobbiamo anche condividere quello che diceva Gandolfi prima. È chiaro che è molto facile adesso sparare addosso alle banche, ma lo abbiamo fatto anche in passato quando non tutto il sistema era così in difficoltà. In ogni caso, dobbiamo ammetterlo, purtroppo non si può prescindere dal rapporto con la banca. La questione è cercare di impostarlo correttamente e anche noi facciamoci anche parte attiva in questo rapporto, no? Assolutamente, non si può prescindere dal rapporto delle banche perché, come ci ha molto spiegato bene il professore, poi dopo da lì si blocca una serie di cose. Noi dobbiamo essere una parte attiva, dobbiamo essere informati di tutte di quelli che sono i nostri diritti, ma anche i nostri doveri, chiaramente. Roberto da Milano, benvenuto. Pronto, sono io? Sì, e lei? Sì, buongiorno. Credo almeno. Sì. Roberto, ci dica. Niente, io volevo raccontare un attimino la mia esperienza di come investitore che ormai ha disinvestito. Nel senso che io ho un profilo molto prudente, nel senso che siamo una famiglia di 4 persone, per cui tendo un po' a proteggere i miei risparmi. E per cui avevo dei fondi abbastanza, secondo me, ben distribuiti, una parte azionaria, una parte obbligazionari, una parte monetaria. E quindi, insomma, lei il suo lavoro di diversificazione l'aveva fatto, come ci consigliano tutti. Esatto. Dove è stato l'inghippo? L'inghippo è stato praticamente nell'informazione, nel senso che, ovviamente, con questa crisi è stato messo l'accento sul fatto che solo i depositi bancari fossero protetti. Per cui ovviamente prima di perdere tutto, penso che molte persone come me abbiano detto vabbè, comincio intanto a disinvestire tutto e lo metto sul conto corrente che perlomeno è protetto. Però Roberto, mi scusi se qui la interrompo, il suo investimento magari ha perso in termini di rendimento, ma è cosa diversa dal rapporto con la banca, perché comunque un fondo di investimento è un fondo, un rapporto a parte. Professor Gandolfi, mi aiuti lei, perché anche qua c'è poi più una confusione di fondo, no? Ecco, è patrimonio separato da quello che è la banca. Allora, intanto mi perdoni, non sento venuto perché non volevo niente disturbare. La ringrazio per l'inciso, mi scuso se il mio messaggio è passato distorto. Io non ho detto e non volevo dire che la colpa della crisi siamoci noi, ma assolutamente no. Guardi, i nostri ascoltatori sono molto pittoreschi a volte e noi cogliamo a volte anche delle provocazioni forse proprio più estreme per belle. Enfatizzare ancora la conversazione, certo. Sono belle. Vorrei rispondere a Roberto, se ho segnato bene il nome. Sì. Dicendo che ha perfettamente ragione, nel senso che il fatto anche di aver comunicato che ci sono solo alcuni investimenti sicuri, indirettamente, inconsapevolmente, perché questo voglio sottolineare, che cosa abbiamo generato? Abbiamo generato il ricorso alla vendita, e quindi alla richiesta di vendita di strumenti finanziari e perché no anche di strumenti di risparmio gestito, e così facendo abbiamo innescato una diminuzione dei corsi. Questo è un dato di fatto. Sul tema e sull'importanza della formazione sono d'accordissimo, l'avevo detto anche in premessa, voglio ricordare perché ci tengo che la mia facoltà di economia, molti miei colleghi, io compreso, abbiamo organizzato in primavera, quindi in tempi non sospetti, dei corsi gratuiti aperti alla cittadinanza proprio su questi temi. La prossima settimana inizierà un'altra promossa dal Comune, quindi questo per sottolineare che cosa? Che noi per primi siamo consapevoli che per fare scelte di investimento consapevoli bisogna essere informati. Vorrei fare un altro inciso, non ricordo chi, ma un telespettatore ha detto vorrei capire come scegliere gli strumenti finanziari. Esatto. Io cambierei quella domanda. Vorrei dire che forse il modo migliore è impostarlo come diceva Di che cosa ho bisogno io per il mio futuro? Esattamente. Allora, vede, nessuno di noi è in grado di dire come posso risparmiare, perché una legge banale, risparmio è reddito meno consumo, quindi su quello non possiamo intervenire. Altro discorso è come posso impiegare il risparmio. E allora, diceva giustamente la dottoressa Mori, quindi mi unisco nel complimento per l'iniziativa, che il modo migliore è fare quella che si chiama l'asset allocation, cioè capire come ripartire i nostri risparmi in diverse classi di attività finanziarie, ma attenzione, non ricercando un rendimento, ma inseguendo degli obiettivi che soltanto noi risparmiatori siamo in grado di sapere. Professor Mori, professor Gandolfi, dottoressa Mori di Cittadinanza Attiva, però abbiamo un minuto di tempo, io chiuderei con lei, poi se riesco faccio anche ribadire alla dottoressa Mori i termini dell'iniziativa La Bussola del Risparmiatore. Roberto da Milano, che ho brutalmente salutato, in ogni caso forse sintetizzava un disagio di fondo nel rapporto con la banca. Lui dice sì, certo, lei ha ragione professor Gandolfi, l'informazione è passata male ed è passato il messaggio che lo Stato avesse messo il cappello della garanzia solo su determinati rapporti con la banca, determinati rapporti finanziari, e i fondi di investimento non fossero in questi. Il tema è a questo punto, e qui mi chiedo quanto tempo dovremmo aspettare prima di ripristinare un totale rapporto di fiducia con la banca, perché se partiamo dal caso di Roberto, qua dovremmo avere, abbiamo davanti a noi 50 anni ancora di commenti da fare su questo. Allora, 20 banche, secondi, professor Gandolfi, sì, mi rendo conto. Anche le banche hanno le loro responsabilità, e quindi in 20 secondi, guardi, non riesco a elencarle tutte. Vorrei soltanto dire una cosa fondamentale, far capire a tutti che il prezzo di un titolo, penso a un'azione, non corrisponde al suo valore. Questo è un messaggio che va dato. Voglio dire un'altra cosa, vedete, oggi noi notiamo in borsa, ci sono dei prezzi, quindi di titoli che hanno perso molto in quotazioni. Questo non significa che valgano meno di prima. Anche perché non si spiegherebbe come mai investitori istituzionali, penso ai fondi libici, ne dico alcuni, sì, penso ai privati, ma non voglio far nome, mi chiedo perché stanno comprando. Perché stanno vedendo, certo, delle occasioni. Grazie, grazie a professor Gandolfi, ad Isabella Mori. Vi ricordo La Bussola del Risparmiatore di Cittadinanza Attiva. Sentite la musica, devo salutarvi. Salvadanaio torna lunedì. Grazie a tutti, da Deborah Rosciani.